Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Deve essere un po' come quando a scuola facevamo le equazioni algebriche. Tu fai uno sbaglietto, una svista, più o meno, chi lo sa. È che poi te lo porti dietro e nella riga sotto cominci già a vedere degli strani numeri e dici, vabbè, tanto poi si semplifica. Sviste o problemi di vista? Perché a volte la vista ci inganna? Buongiorno da Nicoletta. Ci sono tante situazioni in cui mettere a fuoco sembra difficile. Sarà sicuramente capitato anche a voi. Allora, cari amici, accompagnatemi in questa puntata in cui troveremo risposte a tanti nostri dubbi, ma soprattutto, come sempre, cercheremo di trovare indicazioni e consigli per stare bene. Intanto, osservate quello che vi circonda. Allungate lo sguardo, portatelo lontano e poi nuovamente vicino, perché anche i nostri occhi hanno bisogno di relax. Adesso ammiccate, tutto semplice, facile, vero? Ricordatevi allora di farlo ogni tanto, perché anche queste piccole attenzioni aiutano i nostri occhi a riposarsi. Mentre non è qui per riposare, ma per lavorare per noi e per il nostro benessere, il professor Francesco Loperfido. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore a contratto, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica dell'Istituto Scientifico San Raffaele e consulente oftalmologo della Commissione Difesa Vista. Professor Loperfido, tante volte abbiamo proprio bisogno di aiutare i nostri occhi a riposarsi, ad avere un momento di relax per vederci meglio, perché la stanchezza a volte annebbia la vista. La stanchezza annebbia la vista soprattutto quando è portatrice di difetti visivi anche nascosti. Chiaramente il modo e la modalità per accomodare dei difetti visivi porta ad una stanchezza soprattutto durante l'attività di lavoro. A tutto ciò corrisponde anche il nostro diaframma irideo, che deve svolgere una attività di protezione dell'occhio, ma l'iride è vero che ci protegge dalla luce. Quando ce n'è molta luce l'iride si restringe e quando ce n'è poca si dilata, ma questo corrisponde anche a un blocco accomodativo, quindi molto spesso il rapporto luce è direttamente proporzionale al rapporto stanchezza dei nostri occhi. Quindi l'esercizio che abbiamo suggerito in apertura, di portare lo sguardo lontano e poi di portarlo vicino, di ammiccare, è un esercizio che ci dà anche molte informazioni sulla nostra vista. Sì, soprattutto se siamo presbiti oppure se siamo degli ipermetropi, questo passaggio così veloce molte volte diventa difficoltoso, abbiamo come un autofocus del nostro occhio rallentato e questo ci fa vedere molto meno. A proposito di macchina fotografica, 800 24 00 24, c'è Roberto Scaltritti in regia, la parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione, ma c'è una scheda che vorrei invitarvi ad ascoltare perché ci dà alcuni spunti. Andiamo. Volte, vedi doppio? Passando dal buio alla luce o fissando un foglio bianco incontri mosche, filamenti, vermicelli, ragnatele? Ti sembra di far fatica a mettere a fuoco? Qualche volta hai avuto la sensazione di vedere i contorni delle immagini un po' sbiaditi? Hai avuto l'impressione che volti, immagini o lettere fossero distorti? Come avete sentito, quando e soprattutto notato, quando si parla di vista, anche le più piccole sfumature possono fare la differenza, quindi se avete dubbi o volete un consiglio, 800 24 00 24, non avete che da chiamarci. Professor Loperfido, la nostra scheda ha raccolto alcuni dei più frequenti disturbi per i quali viene almeno il dubbio, se non la tentazione, di parlarne con il medico. A volte si tratta di un problema transitorio, in altri casi invece si ripete con una certa frequenza. Sicuramente questo fa la differenza, ma di solito si preferisce temporeggiare, dando magari la colpa alla stanchezza o agli anni. È corretto? Non è sempre corretto. Uno deve stare molto attento ai sintomi che rileva e soprattutto quando questi sintomi aumentano come frequenza. Per esempio la presenza di corpi mobili che vengono definiti mosche volanti, molto spesso sono presenti in un soggetti che o bevono poco, perché il vitro è fatto il 90% d'acqua. Le tariffe bevono poco acqua. Acqua. E quindi l'idratazione del vitro viene meno poi anche con l'età o con alcuni difetti visivi. Il vitro, che è fluido come un miele, inizia a diventare grumoso come una marmellata e quindi, soprattutto sulle fonti chiare, sul muro bianco, si vedono questi corpi mobili. Quindi possiamo dare questo consiglio: se vedete moschine, ragnatele, vermicelli, provate ad aggiungere, a bere un pochino più acqua durante il giorno e state tranquilli. tranquilli? O no, altro? Tra i tranquilli no, perché comunque una visita oculistica va fatta, perché spesso... Eccola lì che me l'ha detto, sì, perché? Perché spesso dietro questi sintomi iniziali possono esserci anche delle alterazioni retiniche nascoste. Certo. E se poi si accompagnano a dei flash luminosi e dei lampi, la visita diventa ancora più impellente. Altre due indicazioni, quando facciamo fatica a mettere a fuoco, quando dobbiamo aumentare proprio l'illuminazione delle nostre scrivanie, di quando leggiamo magari prima di andare a dormire le due pagine del libro, ma ci sono delle persone che invece con gli anni hanno la percezione, la sensazione di avere una vista che è migliore. In questo caso, professore, sono dei fortunati o...? Beh, si definiscono fortunati, ma in realtà poi non è proprio così, perché con l'età, soprattutto con l'avanzare dell'età, il cristallino può modificarsi, quello che poi nel tempo viene chiamato opacità del cristallino e ancora più la cataratta, e questa porta a una modifica dell'indice di rifrazione del cristallino, quindi ci dà delle false miopie che compensano la presbiopia, quindi per il paziente dice: ma io finalmente leggo da vicino senza occhiali. Vedi e che... quindi sono migliorato. 800 24 00 24. Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio sedere. Sono stanco. E a proposito, chi dopo una giornata particolarmente impegnativa non vede l'ora di tornare a casa perché, come si dice, non vede più dalla stanchezza? Poi oggi è una giornata particolarmente faticosa, è lunedì. Allora, qua in studio con me è tornato a trovarci il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. La stanchezza intontisce i sensi, non solo la vista, generalmente tutti, anche gli altri sensi. Perché? Sì, questa è una cosa curiosa anche da un punto di vista dell'analogia di quelle che sono le connessioni tra la medicina tradizionale cinese, per esempio, e la nostra cultura cosiddetta appunto scientifica occidentale. La vista e anche i sensi, per esempio l'udito, che sono essenziali per la postura, di cui parleremo magari dopo, sono strettamente correlati alla qualità stessa posturale. E in medicina cinese i meridiani su cui l'agopuntura, per esempio, va ad agire, a stimolare, sono proprio quelli connessi ai reni, e quindi da lì ci possiamo collegare alla situazione adrenergica anche delle nostre ghiandole surrenali. Reni, vescica urinaria sono due meridiani importantissimi, tant'è che per esempio il canale energetico della vescica urinaria parte proprio dall'occhio. Dai. E ci sono sì degli esercizi, di antichi esercizi di medicina energetica che già usavano ai tempi dei monaci cosiddetti tibetani cinesi, che prevedevano praticamente l'attivazione dei muscoli oculari osservando verso l'alto in modo fisso e associando a questa situazione anche un esercizio di stretching particolare per tutta la schiena, proprio perché questo meridiano parte dall'occhio, arriva fino ai piedi passando sui muscoli paravertebrali. Quindi quando noi abbiamo proprio la sensazione di non vedere più, a volte si dice dalla fame, ma in questo caso dalla stanchezza, c'è una spiegazione, proprio l'energia che viene interrotta, bloccata. Ma dato che io vorrei evitare, professor Tirelli, di arrivare a casa stasera distrutta dalla stanchezza, lei ha qualche esercizio da suggerirci? C'è un esercizio molto carino, magari da farsi, magari non troppo di fronte a tante persone, perché ci scambierebbero probabilmente per dei matti. È un esercizio che si chiama Do-in, di tecnica giapponese, vuol dire scuotimento. Scuotimento in questo caso è prendere le nostre mani, chiuderle a pugno, sì, e picchiettare sia la parte superiore della testa, ok? E questo appunto direi di non farlo davanti a tante persone. proprio agli intimi. Possiamo tenere gli amici più intimi e proporre questa esercizio. Sì, è proprio esercizio. Picchiettare proprio la zona superiore e posteriore anche del nostro capo, proprio perché va a stimolare quei meridiani interessati. E poi poi tutti i meridiani laterali rispetto alle nostre, ai nostri arti superiori e inferiori. Quindi la sagoma del nostro corpo, sì, praticamente. Questo è ottimo perché proprio è un risveglio energetico. Io lo posso fare, per esempio, anche con i miei atleti, lo faccio generalmente prima della performance atletico, negli spogliatoi o sul campo, faccio io a loro questo lavoro di do-in, ma si può farlo proprio da sé, sia quando si è in ufficio, in momenti di stanchezza, o quando si è anche a casa. Una cosa anche importante, carina, c'è un meridiano, si chiama vasoconcezione, c'è un punto tra le due clavicole, proprio nel punto di connessione tra lo sterno e le clavicole. Sotto il vostro pomo d'Adamo. Perfetto, ecco, okay. Che se stimolato in modo orario, antiorario, si chiama appunto, noi occidentalmente lo chiamiamo di reset, è un risveglio mentale, ma questo è un punto proprio energetico per risvegliare tutti quelli che sono i canali anteriori del nostro corpo, della nostra mente, eccetera. E quindi tutto questo agisce anche positivamente sulla vista. Di cui continueremo a parlare con il professor Loperfido, ma abbiamo Maria che ci chiama da Milano. Buongiorno Maria, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Io volevo fare una domanda al professore. Vedo sempre davanti agli occhi tre puntini neri e ultimamente ho fatto anche una visita oculistica e mi ha detto: ho capito cos'è, ma io poi non ho avuto modo di chiedere cos'è. E questi tre puntini neri davanti agli occhi, ho 58 anni. Insomma, questi tre puntini danno fastidio, professor Loperfido. Ecco, perché insomma sono una compagnia non tanto gradevole. Professore, che cosa si può fare e perché? Allora, i puntini neri corrispondono sicuramente a un addensamento mitreale. Quello che la signora non ha detto, se questi puntini sono mobili o fissi, quindi se muovendo lo sguardo i puntini tendono a muoversi, a spostarsi, vuol dire che seguono la massa vitreale che si muove all'interno del nostro occhio. Chiaramente contro o a favore dei corpi mobili vitreali c'è poco da poter fare dal punto di vista chirurgico, perché la chirurgia diventerebbe veramente pesante. Sì. Sicuramente una delle cose che può essere interessante, sembra un po' scontato, è la correzione dell'occhiale, perché molte volte se c'è un difetto visivo e noi non lo mettiamo a fuoco, noi riusciamo a vedere tutti gli stadi intermedi di una focale, invece con una lente ben corretta l'immagine passa direttamente sul piano retinico e quindi le immagini intermedie, certo, quindi anche i puntini, a volte si sfocano. E poi un'informazione importante, voi che mi state scrivendo anche al 349-238-6666, perché le mosche volanti piacciono, perché sono molto frequenti, ecco, cercate di individuare se sono ferme o se le mosche vengono con voi, mosche, vermicelli, ragnatele, eccetera. Mentre il professor Tirelli, a proposito non di mosche ma di occhi, gli occhi, l'abbiamo anticipato, condizionano la nostra postura, succede da quando siamo piccoli ai banchi di scuola, il bambino che chiede di essere avvicinato oppure sta un pochino più curvo sui banchi, non vede bene. Questo ponte che lei fa tra la medicina occidentale e la medicina orientale sicuramente ci dà delle indicazioni, è una lettura nuova che è vecchia da millenni, sì. Però per noi che ci avviciniamo a questa concezione olistica. Certo, infatti ma una cosa che si evidenzia per esempio anche nelle palestre, oltre che nelle scuole, ci sono spesso persone che corrono sul tapirulan di fronte a dei video per distrarsi, per accelerare un pochino la loro performance guardando film o quant'altro. Il problema è che spesso se questi video non sono centrati rispetto al tapirulan possono provocare dei grossi disturbi posturali. Ci sono muscoli ovviamente importanti della nostra capacità visiva che sono strettamente correlati, in particolare nella parte posteriore del nostro capo. Anche solo mettendo le nostre mani dietro la nuca e muovendo gli occhi verso destra, sinistra, avanti, cioè sopra e sotto, possiamo sentire l'alterazione della muscolatura posteriore della nuca. Sì. Questo, allora, se io corro per 40 minuti su un tapirulan e non vedo esattamente di fronte a me il video, ma ce l'ho sulla mia destra, questo condizionerà tutta la catena cinetica posteriore, proprio perché l'occhio, la parte superiore, è il primo degli anelli che poi si riflette sull'ultimo degli anelli, che è quello dei piedi. Quindi attenzione a dove posate gli occhi. Certo. Anche quando correte. 800 24 00 24, Patrizia ci chiama dalla provincia di Cremona. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo chiedere questo. Qualche mese fa ho cominciato a vedere un puntino nero, soprattutto quando avevo uno sfondo molto bianco, luminoso. Sì. Come un amico mi aveva detto che aveva avuto un problema di questo genere ed era un problema di retina, sono andata al pronto soccorso. Sì. Mi hanno fatto la visita oculistica e mi hanno detto: signora, no, no, non si preoccupi, non è niente, vedrà che ci farà poi l'abitudine. E adesso la domanda è questa. Sì. Io adesso, sì, probabilmente ci sto facendo l'abitudine, nel senso che quando ho ancora un fondo molto chiaro e molto luminoso, dipende quindi dai fondi, se no si è fatto in qualche modo amicizia. Tra l'altro, professor Lo Perfido, non sono né un disturbo per cui andare al pronto soccorso. La mosca. La mosca di per se stesso no, però se accompagnata da altri sintomi come flash assolutamente luminosi, assolutamente sì. È l'unico momento in cui i corpi mobili, quindi le mosche volanti, possono essere motivo invece di urgenza è quando si ha uno sciame di corpi mobili, quando si incrementa enormemente il numero. Questo ci fa capire che probabilmente invece è interessata anche la retina con un'attrazione. Come suggeriva l'amico di Patrizia, quindi tranquillità per le mosche, vermicelli, proviamo a correggere bene il nostro disturbo visivo, a bere di più, capiamo se si muovono con noi oppure stanno ferme, meglio che si muovano con noi, abbiamo capito. Altre indicazioni, se tutto rimane così bene, se no se ci sono flash, lampi, sciami di mosche, di rani e di vermi, andiamo al pronto soccorso perché lì è un segnale di una retina che è sofferente, interessata e ha subito un danno. Possiamo chiudere con le mosche, che dice professor Tirelli, lei sulle mosche sa dirci delle cose? Ma diciamo che nella medicina cinese la vista è strettamente correlata ai meridiani del fegato e della cistifellea. Sì. Quindi fegato vuol dire, come anche in antiche popolazioni si diceva, avere del fegato, avere grinta, vitalità, vuol dire vederci lontano anche, perché spesso le persone leader hanno queste caratteristiche di vitalità e di lungimiranza. È per questo che in medicina cinese si va a lavorare principalmente nell'allungamento dei muscoli associati a questi meridiani, a questa specifica situazione energetica. Io devo dare la linea ai mercati e poi al meteo, perché sono le 11:28. Però vi voglio ricordare anche di andare ogni giorno a leggere il nostro Daily Lab, oltre che a scriverci, seguirci su Twitter, su Facebook e scaricarci, ma intanto mercati, meteo e poi di nuovo insieme tra poco. Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere. Viste o problemi di vista? Buongiorno, noi siamo ritornati. Chi per sbaglio le scrive potrebbe giustificarsi dicendo: beh, è stata una svista. Chi invece le dice può a volte strappare un sorriso e al tempo stesso dimostrare che anche la lingua inciampa. Sono tornata dalle vacanze e da domani riprendo il solito tram tram. Prima o poi tutti i nodi vengono a galla. Stiamo uscendo dal seminario. Ho dormito all'agghiaccio. Dobbiamo essere prudenti e procedere a passo d'uovo. Ho visto un'ambulanza a sirene spietate. Latte parzialmente stremato. Mi sono sbagliato, ho preso il lapis. Piove a catenelle. Di questo passo arriveremo alle candele greche. Ho proprio i nervi fuori di pelle. Non potete avere la botte piena e la moglie vuota. Dal libro di Stefano Bartezzaghi, Non ho più la squallida idea, una raccolta di strafalcioni, o meglio di malapropismi. In linea con noi abbiamo la dottoressa Francesca Dragotto, ricercatore nel settore glottologia e linguistica, Università di Roma Tor Vergata, alla facoltà di lettere e filosofia. Buongiorno, dottoressa, professoressa. Buongiorno, uguale, va bene anche Francesca, buongiorno. Buongiorno a lei. Come possiamo leggere queste frasi un po' strampalate che ci strappano sicuramente una risata? Sono errori? Trappole in cui è caduto il nostro cervello? Esattamente, sono sì, in sé sono errori, ma che ci offrono degli spunti di lettura davvero interessanti anche su come funziona il nostro cervello. Come prima cosa una spiegazione sulla forma malapropismo. Malapropismo è il modo tecnico con cui ci riferiamo a quelle parole che vengono fuori per la sostituzione di uno o più suoni nella forma che avremmo voluto pronunciare e che non riusciamo a pronunciare. L'origine è molto interessante perché si tratta del protagonista di un libro scritto intorno alla fine del Settecento, la protagonista per l'esattezza, Mrs. Malaprop, un libro il cui autore Sheridan, inglese, era anche un politico, e che appunto aveva come tratto caratteristico proprio quello di produrre parole sgrammaticate ma dal forte effetto comico, e infatti suscitano sicuramente il riso le forme che avete fatto sentire poco fa. Certo. E quindi, ritornando al fatto, sono errore o non sono errore? Per alcune è più facile individuare delle attenuanti, perché insomma, posto che lo slittamento c'è stato, quindi che si tratta di deviazioni rispetto alla norma, ce ne sono alcune, le chiamerei proprio di un primo tipo, i malapropismi veri e propri, a cui ricondurrei ho dormito all'addiaccio, sì. Mi sono sbagliato, ho preso un lapis, che in qualche modo possiamo giustificare, questo non significa che ne possiamo sancire l'uso, perché... ho dormito all'agghiaccio rispetto a ho dormito all'addiaccio, sì. La tolleranza o perlomeno la comprensibilità di quest'uso è legata al fatto che addiaccio, un latinismo da addiacere, dormire presso, lo si ritrova soltanto in questa espressione che viene utilizzata in riferimento al gregge e particolarmente precisamente in riferimento a quello spazio per lo più recintato al cui interno si ricovera il gregge per la notte. Sì. Ora, il basso rendimento d'uso, ovvero il fatto che appunto si tratti di un'espressione che è cristallizzata, quindi addiaccio ritorna soltanto in quell'espressione. Quell'espressione non ha un'altissima circolazione tra i parlanti proprio perché essendo un'espressione fissa è difficile, logico, certo, trovare modo di utilizzarla. Spinge alla sostituzione del meno facile col più facile, quindi il parlante cosa fa? Attinge alle proprie conoscenze linguistiche e va a cercare la parola che dal punto di vista dei suoni, dal punto di vista fonico, appare più aderente, appare più somigliante e quindi va a sostituire il meno atteso con il più atteso. La stessa cosa possiamo vedere per lapis al posto di lapsus, io personalmente ho trovato tantissime volte anche raptus, quindi mi sono sbagliata, ho preso un raptus, la motivazione alla base tanto di lapis tanto di raptus è la stessa, la presenza di suoni di lapsus, che però di per sé per molti parlanti costituisce una parola complessa soprattutto dal punto di vista articolatorio, la presenza di quello ps, sì. Lo stesso ps che spinge molti a dire psicologia è vero. Sì. Vediamo se fa dei malapropismi a Tiglio, che ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buongiorno Attilio. Buongiorno Nicoletta. Le è capitato di dire una parola di cambiare un po' il senso di una parola, di fare uno strafalcione? Ma strafalcione mi sarà capitato senz'altro. Un po' di cambiare il senso così delle frasi alle quali voi facevate riferimento non mi pare, ecco, cioè, però. Però non si sa mai. Adesso ecco, comunque. Fatto, non me ne sono accorto e nessuno me l'ha fatto notare. Ecco, se capitasse, adesso la professoressa Dragotto ci ha ben spiegato il meccanismo. Mattiglio, lei ha forse una domanda? Sì, io avevo fatto una domanda a proposito dell'argomento occhi che stavate trattando ed era relativa a questo. Io molto spesso ho la sensazione di vedere le linee verticali delle case, delle pareti, dei quadri, eccetera, leggermente inclinate. Inclinate. Sì, volevo sapere se questa è una cosa, una mia impressione o dipende da, non lo so, da che cosa possa dipendere, oppure è una patologia o qualche cosa del genere. Sentiamo il nostro prof. Allora, io mi auguro che lei alla luce di questo abbia già fatto una visita oculistica comunque, e se non l'ha fatto è importante farla, perché il vedere improvvisamente inclinato o distorto o deformato o su linea verticale o sull'orizzontale può comportare un problema nella parte centrale della retina, che è la zona, che è l'area maculare, quindi soprattutto deve valutare se questo è monoculare o binoculare, quindi se se ne accorge più chiudendo un occhio rispetto all'altro. Ed è una prova questa che dobbiamo sempre fare, guardare, fissare un oggetto con un occhio chiuso e alternato. Perfetto, e soprattutto magari fissando da vicino, e se uno è presbite con gli occhiali, un quaderno a quadretti. A questo punto, fissando il punto centrale di questo quaderno, guardare le linee orizzontali e verticali e tracciare con una matita le deformità sul foglio. La deformazione sul foglio ci dà un'indicazione di dove può essere il danno e quindi in questo caso è importantissimo accelerare una visita oculistica. A proposito di sviste, professor Tirelli, abbiamo ancora in linea la professoressa Dragotto e lei mi diceva che ci sono delle letture interessanti che ci arrivano dall'Oriente. Sì, sempre queste tecniche a supporto giustamente di invece tecniche mediche, perché ovviamente queste sono tecniche di supporto complementari eventuali. È interessante notare come la parte del lessico, la parte verbale sia strettamente correlata nella medicina energetica con quello che è il meridiano del cuore, cuore inteso come emotività. Per cui situazioni di particolare stress, iperstress in questo caso emotivo, agiscono sicuramente negativamente nella capacità di verbalizzazione fluida. E allora direi che, in modo leggero lo dico ovviamente, questo una cosa molto carina, è un esercizio da farsi che ci viene naturale fin da quando siamo piccoli. Attivare il meridiano del cuore vuol dire attivare i meridiani che stanno all'interno delle nostre braccia, braccio, avambraccio. Allora la cosa più bella che istintivamente ci viene da fare, per esempio osservando un paesaggio, è aprire le braccia e dire: che bellezza. E questo è già un'attivazione di quella che è la situazione, zona toracica interessata all'emotività col meridiano, oppure ancora meglio guardare la persona amata e dirle un bellissimo ti amo abbracciandola. Questo è l'esercizio più bello in assoluto. Ha capito, professoressa Dragotto, che qua noi partiamo dalla vista e dalle sviste, ma poi alla fine ci abbracciamo. Davvero bello, e rende giustizia a quella che è una delle funzioni fondamentali della lingua, la funzione espressiva. Usiamo la lingua prima ancora che per riferirci alle cose e a quelli che sono i nostri, la nostra idea del significato delle cose la utilizziamo per dare voce ai nostri sentimenti, alla nostra visione del mondo, quindi è perfettamente in linea con una delle funzioni fondamentali del linguaggio, verbale o non. Intanto che ringraziamo la professoressa Dragotto, volevo dirle, professoressa, che sono arrivate altri malapropismi dei nostri ascoltatori che metteremo anche sul nostro profilo Facebook. Magari, io so che tra l'altro è possibile seguire la professoressa Dragotto perché ha un suo sito, vero? Dove segna anche, annota i vari post e anche le conversazioni con il nostro Stefano, il nostro guerriero della domenica. Sì, ho un blog che si chiama In viaggio per Tuttopoli e che si trova all'indirizzo tuttopoli.com, in cui lascio poi delle riflessioni sugli argomenti che tocchiamo, e in questo caso, e poi vi lascio la parola, sarebbe stato interessante vedere il rapporto che c'è tra il malapropismo e alcune patologie del linguaggio, perché poi quello che nella maggior parte dei parlanti corrisponde a una svista, tanto per rimanere in tema, invece in altri casi costituisce proprio la base di una patologia. E certo, succede proprio per gli occhi come per la lingua, diciamo, no? Le stesse cose, ci sono delle sviste che in realtà sono segnali di patologie oculari, e ci sono dei malapropismi, degli strafalcioni che invece segnalano dei problemi di linguaggio. Intanto io vi invito, a proposito, di andare sul nostro archivio. Abbiamo dedicato molte puntate insieme al professor Stella sulla dislessia, dato che voi me lo state chiedendo al 349-238-6666, potete andare sul nostro archivio. Professoressa Dragotto, è stato un piacere averla in linea con noi, la saluto, la ringrazio. Grazie a voi, è stato un piacere per me. Ci sentiamo su Tuttopoli, e noi invece andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e ritorniamo subito dopo insieme con Giuseppe che ci chiama da Roma. Essere e benessere. E siamo tornati, con noi c'è Giuseppe, ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo porre una domanda sempre sul questione occhi. Io quando guardo fuori la finestra, oppure sto al mare, guardo il cielo, vedo dei piccoli tondini, come se fossero immagini microscopiche, che si raggruppano oppure sono isolati, collegati da una serie di filamenti. Sì. È come se fossero, diciamo, tutti, io ho sempre pensato da bambino, perché li vedo da bambino, come se fossero microbi che stanno sulla superficie. Vede, perché sa, Giuseppe, che ciascuno di tutte le persone che hanno questo problema, che noi abbiamo chiamato come mosche volanti, ma un termine molto preciso, vero professor Loperfido? Sì, e mosche volanti è un termine appropriato, però, per come viene definita. E tutti ci facciamo, perché anch'io ogni tanto le vedo, ci facciamo siamo un po' il nostro film. Uno pensa che sono i, che siano i microbi, l'altro la ragnatela, l'altro la moschina. Il problema è che poi le cerchiamo anche quando non le abbiamo. Scusi, l'ho interrotta. Quindi la sua domanda era? Che fare? Volevo... Sì, ma siccome è stato detto che uno dei rimedi è bere molto... No, io bevo tantissimo, ma le ho viste sia le ho sempre viste da quando ero bambino, da quando questa avevo questo è rassicurante perché sì, adesso ecco, perché il disturbo che è presente da tanto tempo e non modifica nulla è una garanzia. Ma professore, no, questa è tutta un'altra cosa. Qui non si tratta di un problema del vitreo, questa è una diffrazione tra quello che è l'aria e quella che è l'indice di frazione del nostro occhio all'interno. Noi abbiamo che il vitreo ha un suo indice di frazione, il cristallino pure. Quindi quando noi vediamo, passiamo dal nostro indice di frazione, alziamo lo sguardo verso l'alto, e questo cambia se siamo al mare, in montagna, in collina, noi possiamo vedere una diversa rarefazione dell'aria che viene vista così, interpretata così dal nostro occhio, che non è un difetto o un danno del nostro vitreo, però attenzione. Quindi in questo caso è pienamente giustificata l'osservazione che veniva vista da questo signore fin dall'età scolare, perché non è un problema visivo diretto come alterazione del vitreo. Quindi questi disturbi alcune persone li avvertono quando cambiano panorama, diciamo così, certo. Perché lì è un problema è di luce. Sì. Bene, abbiamo visto durante questa trasmissione quanto sia difficile in fondo vederci chiaro, e non solamente quando leggiamo, quando guardiamo il panorama, ma anche quando dobbiamo decidere. Scegli una porta. Una qualsiasi. Oh, mi aiuti, mi serve un indizio. Cosa devo fare adesso e come devo scegliere? Un giorno Alice arrivò a un bivio della strada e vide lo stregatto. Quale strada devo prendere? Gli chiese. Dove vuoi andare? Fu la risposta. Non lo so, ribatté Alice, e lo stregatto. Non ha importanza. Non ho ancora capito. Non è complicato, non puoi restare nel vicolo per sempre. Devi scegliere. Ma come? Insomma, come devo scegliere? Tu quale preferisci? Onestamente, non lo so. Vi siete riconosciuti? Bene, allora vi affido al dottor Claudio Belotti, coach. Buongiorno, dottor Belotti, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. È uno dei nostri esperti del Daily Lab, ho visto anche un post che diceva Belotti santo subito. Allora, ecco, come si fa a scegliere bene quando siamo indecisi? Allora, per continuare la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, lo stregatto le risponde: quindi se non è importante dove vai, non è importante la strada che prenderai. Quindi è importante decidere, perché decidere ci porta ad andare per una strada. Parlando di vista, noi, i nostri occhi vedono la maggior parte delle cose, ma il nostro cervello percepisce solo le cose che sono importanti, perché grazie al sistema di attivazione reticolare, è una cosa che al nostro cervello, i nostri neuroni anticipatori decidono di prestare attenzione alle cose che sono importanti e a tralasciare le altre. Sì. Ma da sé che se noi non decidiamo cosa è importante, il nostro sistema di attivazione reticolare non sa a cosa prestare attenzione. Quindi il consiglio è sempre quello: meglio decidere e prendere una decisione sbagliata, così poi ci accorgiamo che è sbagliata e possiamo cambiarla, che non decidere, che è la decisione sbagliata per eccellenza, perché mette in crisi il nostro cervello, ci fa perdere tempo e poi arriviamo ad avere i famosi compleanni con gli zero dietro. Sì. Che ci fanno pensare che è passato troppo tempo e andiamo in depressione, in stress, perché abbiamo buttato via del tempo. Allora, invece di buttarlo via, magari usiamolo a fare una cosa e accorgiamoci che è sbagliata, così poi la possiamo cambiare. Le persone felici fanno tanto, le persone ottimiste fanno tanto, sbagliano, imparano e vanno avanti. Grazie dottor Belotti per essere stato con noi, ci ha rassicurato. Quindi anche perché sbagliando si impara, dottor Belotti. Esattamente, e sbagliando si impara e a un certo punto bisogna fare sbagli nuovi perché bisogna fare qualcosa di nuovo che è sempre più difficile e quindi sempre più bello. È vero, grazie al dottor Belotti, potete leggere naturalmente i suoi post anche sul nostro Daily Lab. Intanto abbiamo Luciano D'Alecco, sei rapidissimo, forse? Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno, saluti a tutti. Sì, sì, sono rapidissimo. Mi è successa una cosa strana, andando a fare un controllo visivo per cambiare gli occhiali che non vedevo più i cartelli stradali. L'oculista mi ha detto: guardi, deve tornare agli occhiali precedenti perché ha riacquistato qualche decimo. Ad questo punto mi sono rimasto un pochettino disorientato. Invecchiando si migliora. Che età, scusi, Luciano? Sono 69 anni. 69 anni, è possibile, professor Lo Perfido? È possibile perché, come abbiamo detto, ci sono dei difetti visivi che si modificano perché la vecchiaia può far cambiare l'indice di rifrazione del cristallino e della nostra cornea. Quindi gli anni portano anche cose positive. Chiudiamo con magari un esercizio, un pensiero del professor Tirelli a questo proposito. Gli anni passano, abbiamo 30 secondi. No, in linea con quanto diceva il dottor Bellotti, il fegato è importante. La vista, bisogna avere coraggio, coraggio di guardare avanti, il coraggio di prendere delle scelte e decisioni che a volte in modo metaforico non vogliamo prendere o fare, chiudendoci la capacità di vedere oltre. E voi decidete. Mi raccomando di tornare con me domani dopo il GR delle 11, ma decidete di stare sempre sintonizzati naturalmente su Radio 24. Un saluto al professor Tirelli, al professor Lo Perfido, a voi, a domani. Essere e benessere.